Capitolo 5. A poca distanza da Longbourn abitava una famiglia con la quale i Bennet erano particolarmente intimi. Sir William Lucas si era appena occupato di commercio a Meryton, dove aveva raggranellato una discreta sostanza ed era salito agli onori del cavalierato per un discorso rivolto al re mentre ricopriva la carica di sindaco. Questo titolo di benemeranza gli aveva forse procurato troppo forti emozioni. Gli aveva comunque instillato il disgusto per la sua occupazione e per la residenza in quella piccola città commerciale e, abbandonatele entrambe, si era trasferito con la famiglia a circa 1 miglio da Meryton, in una casa che venne da allora denominata Villa Lucas. Là, Sir William poté riflettere compiaciuto sulla propria importanza e, libero dalle pastoie e degli affari, dedicarsi esclusivamente ad essere affabile col mondo intero. Per quanto l'alta sua posizione, infatti, l'avesse inebriato, non aveva tuttavia fatto di lui un superbo, al contrario, egli era tutto premure per il suo prossimo. Innocuo per natura, amichevole, compiacente, il fatto di essere stato presentato a Palazzo St. James l'aveva reso cerimonioso. Lady Lucas era una buona donna di casa, abbastanza sciocca per essere degna vicina della signora Bennet. Avevano parecchi figlioli. La maggiore, una giovane intelligente assennata di circa 27 anni, era l'intima amica di Elizabeth. Che le signorine Lucas e le signorine Bennet si trovassero per parlare del ballo era assolutamente indispensabile, e il mattino successivo alla festa portò le prime a Longbourn per sentire le impressioni delle amiche e comunicare loro le proprie. «Tu sì che hai incominciato bene la serata, Charlotte», disse la signora Bennet alla signorina Lucas, sforzandosi di essere gentile. «Il signor Bingley ti ha scelta per prima». Già, ma è sembrato più soddisfatto del numero due. Oh, vuoi alludere a Jane, suppongo, perché con lei ha ballato 2 volte. Questo sarebbe abbastanza a significare la sua ammirazione per lei, è vero? Anzi, io ne sono piuttosto convinta. Ho sentito raccontare qualche cosa, ma non so più neppure di che si tratti con precisione. Qualcosa che aveva a che vedere col signor Robinson. Forse intende dire quanto ho colto per caso della conversazione fra lui. E il signor Robinson non gliel'ho detto? Il signor Robinson gli domandava come gli piacessero le nostre feste di ballo di Meryton e se non gli sembrasse che la sala fosse piena di graziose signore e quale fosse la più graziosa secondo lui. E la pronta risposta di Bingley all'ultima domanda? Ma la maggiore delle signorine Bennet, senza ombra di dubbio, non ci possono essere due pareri su questo punto. Perbacco! Già, questo era abbastanza esplicito davvero. Si direbbe addirittura che, ma comunque può darsi che tutto si risolva in niente, sai? Nel cogliere frasi al volo, io ho avuto però più fortuna di te, Lizzie, osservò Charlotte. E il signor Darcy è meno degno di essere ascoltato del suo amico, non è vero? Povera Lizzie, essere proprio soltanto passabile. Vorrei che tu non mettessi in mente a Lizzie di essere stata offesa dal cattivo trattamento di quell'individuo, tanto antipatico che il piacergli dovrebbe essere considerato una vera disgrazia. La signora Long ieri sera mi ha detto che è stato seduto vicino a lei per mezz'ora senza aprir bocca neppure una volta. Ne è proprio sicura, mamma? Non si sbaglia un pochino? Insinuò Jane, perché io non sono certa di aver visto che il signor Darcy le rivolgeva la parola. Perché lei aveva finito per chiedergli se gli piaceva Netherfield e lui non aveva potuto fare a meno di rispondere, ma diceva che sembrava molto seccato che gli si rivolgesse la parola. Mi hanno detto che la signorina Bingley, disse Jane, che egli non parla mai molto, se non fra i suoi amici intimi, con loro è notevolmente simpatico. Non credo nemmeno una parola, mia cara. Se fosse davvero tanto simpatico, avrebbe parlato con la signora Long, ma io ho già capito come sarà andata. Tutti dicono che sia divorato dall'orgoglio e lui avrà sentito dire in qualche modo che la signora Long non ha la carrozza e che era venuta al ballo in una vettura da nolo. Non gli serbo rancore per non aver conversato con la signora Long, disse la signorina Lucas, ma con Lizzie avrebbe potuto ballare. Un'altra volta, Lizzie, io non ballerei affatto con lui se fossi in te, le disse la madre. Ritengo, mamma, di poter andare sul sicuro promettendole di non ballare mai con lui. Secondo me, disse la signorina Lucas, la sua alterigia non è così offensiva come sovente la si considera, perché presenta delle attenuanti. Non c'è da stupirsi che un così bel giovane con famiglia, sostanze, insomma, ogni cosa in suo favore abbia di se stesso una certa presunzione. Egli ha, se così me è lecito esprimere, il diritto di essere superbo. Questo è vero, confermò Elizabeth, ed io sarei dispostissima a perdonargli il suo orgoglio, se gli non avesse umiliato il mio. L'orgoglio, osservò Mary, che si piccava della solidità dei suoi ragionamenti, è un difetto piuttosto comune, io ritengo. In base a tutto quanto letto, sono convinta che è anzi comunissimo nell'umana natura, la quale vi è particolarmente incline, e ben pochi sono fra noi coloro che non nutrono un sentimento di compiacimento per una qualunque loro dote, vera o immaginaria che sia. Vanità e orgoglio sono due concetti ben diversi, sebbene i due termini vengano spesso usati come sinonimi. Si può essere orgogliosi senza essere vanitosi. L'orgoglio si collega piuttosto all'opinione che abbiamo di noi stessi medesimi. La vanità a ciò che desidereremmo fosse l'altrui opinione. «Se fossi ricco come il signor Darcy», esclamò un giovane Lucas che era venuto con le sorelle, «poco mi importerebbe del mio orgoglio. Terrei un branco di segugi e mi berrei una bottiglia di vino al giorno». «Nel qual caso berresti molto più di quanto non ti sia lecito», disse la signora Bennet. «E se ti ci pescassi io, ti porterei immediatamente via la bottiglia». Il ragazzo protestò che non vi sarebbe riuscita. La signora continuò ad affermare di sì e la discussione ebbe termine soltanto con la fine della visita. Capitolo 6. Non andò molto che le signore di Longbourn si recarono dalle dame di Netherfield. La visita venne debitamente restituita. I modi garbati della signorina Bennet accrebbero la buona disposizione che la signora Hurst e la signorina Bingley nutrirono nei suoi confronti, e benché la madre fosse risultata un essere insopportabile e le sorelle minori neppur degne di conversazione, venne espresso alle due maggiori il desiderio di far più ampia conoscenza con loro. Jane ricevette quell'attenzione col massimo piacere, ma Elizabeth continuava a vedere una certa nota di superbia nel loro modo di trattare chi che sia, salvo forse ma stento sua sorella, e non riusciva a trovarle simpatiche. Riconosceva però che le cortesie da loro usate a Jane avevano un certo valore in quanto scaturivano con ogni probabilità dall'influenza esercitata su di loro dall'ammirazione del fratello per lei. Ovunque si incontrassero era evidente in generale che egli la ammirava davvero, e per lei, Elizabeth, è ormai altrettanto evidente che Jane stava cedendo al sentimento di preferenza che aveva cominciato a nutrire nei riguardi di lui sin dall'inizio, ed era insomma sulla via di esserne innamoratissima. Ma constatò con piacere che un tal sentimento non sarebbe divenuto facilmente preda del pettegolezzo mondano in genere, poiché Jane univa ad un'intimità profonda una compostezza di spirito e una costante giovialità che l'avrebbe salvaguardata dai sospetti degli impertinenti. Ne fece parola con la sua amica Lucas. «Può darsi che sia piacevole», rispose Charlotte, «essere in grado di infondere al pubblico tanta soggezione in un caso simile. Ma talvolta l'essere così controllati può rappresentare uno svantaggio. Se una donna cela con altrettanta abilità il suo affetto anche all'oggetto del medesimo, può in tal modo perdere l'occasione di legarlo a sé per sempre, e sarà allora magra consolazione il pensare che il mondo ne sia rimasto ugualmente all'oscuro. In quasi ogni amore c'è tanta gratitudine o vanità che non è prudente abbandonare il sentimento alla deriva. Possiamo tutti cominciare liberamente. Una leggera preferenza è cosa abbastanza naturale, ma sono ben poche quelle fra noi così audaci da essere veramente innamorate senza venirne incoraggiate. In 9 casi su 10 è consigliabile che una donna dimostri più affetto di quanto ne sente. A Bingley piace tua sorella, ciò è fuori dubbio, ma può darsi che non si spinga mai oltre se lei non l'aiuta. Ma Jane lo aiuta, quel tanto che la sua indole glielo consente. E se me ne accorgo io, lui dovrebbe essere ben sciocco per non rendersene conto. Ricordati, Lizzie, che lui non conosce il carattere di Jane come lo conosci tu. Ma se una donna ha per un uomo una preferenza che non si preoccupa di nascondere, l'uomo deve pure accorgersene. Forse sì, se li incontrano abbastanza spesso. Ma sebbene Bingley e Jane si vedano con una certa frequenza, non stanno mai insieme molte ore di seguito. E poi si vedono sempre in compagnie numerose miste, così che non è loro possibile passare ogni momento a conversare. Per questo Jane dovrebbe trarre il massimo profitto da ogni mezz'ora in cui le è concesso di richiamare l'attenzione di Bingley. Quando sarà sicura di lui ci sarà tutto il tempo per innamorarsene, quanto le pare. «Sarebbe un ottimo progetto il tuo», rispose Elizabeth, «se non si trattasse altro che di fare un buon matrimonio. Anzi, se io fossi decisa a sposare un ricco signore o in genere a sposarmi, credo che l'adotterei senz'altro. Ma non sono questi i sentimenti di Jane, che non agisce mai secondo un piano prestabilito. Per il momento non è ancora ben certa della portata della propria ammirazione per Bingley né della sua ragionevolezza. Lo conosce soltanto da 2 settimane. Ha fatto 4 giri di danza con lui a Meryton. L'ha veduto una mattina nella sua villa e da allora è stata a pranzo con lui 4 volte. Questo non basta a farle capire il suo carattere. Ragionando a codesto modo, no, davvero. Se avesse soltanto pranzato con lui, avrebbe scoperto unicamente se ha buon appetito. Ma devi ricordarti che hanno pure passato insieme 4 sere, e 4 sere possono significare molto. Già, queste 4 sere hanno permesso loro di chiarire che entrambi preferiscono il 21 al mercante in fiera. Ma quanto agli altri tratti essenziali del carattere, non credo che sia stato rivelato molto. Insomma, concluse Charlotte, auguro con tutto il cuore a Jane di riuscire. Ma anche se lo sposasse domani, crederei che non avrebbe minor probabilità di essere felice che stesse a studiarne il carattere per 12 mesi consecutivi. La felicità nel matrimonio è unicamente questione di fortuna. Per quanto i fidanzati si conoscano reciprocamente a fondo, per quanto simili siano le loro indoli, ciò non aumenterà per nulla la loro felicità. Continueranno in seguito a scoprirsi abbastanza dissimili per aver ciascuno la loro parte di cruci. Insomma, mi pare che sia meglio conoscere il meno possibile i difetti della persona con la quale si dovrà passare la vita. Mi fai ridere, Charlotte. Ma non parli sul serio, e lo sai anche tu. Tu stessa non agiresti mai in codesto modo. Occupata com'era a osservare le attenzioni del signor Bingley per la sorella, Elizabeth era ben lontana dal sospettare che lei stessa stava diventando oggetto di qualche interesse agli occhi dell'amico di lui. Il signor Darcy aveva cominciato col trovarla appena passabile. Al ballo l'aveva guardata senza ammirazione e negli incontri successivi l'aveva guardata soltanto per criticarla. Ma non appena finito di chiarire con se stesso e con gli amici che quel volto aveva sì e no dei tratti discreti, aveva incominciato ad avvedersi che quegli splendidi occhi neri conferivano a quello stesso volto un'espressione molto intelligente. A quella scoperta ne erano seguite altre, non meno per lui mortificanti. Benché il suo occhio gli avesse rivelato più di una simmetria in quella figuretta, egli dovette ammettere in seguito che quel corpo era flessuoso e piacente, e sebbene affermasse che le maniere di lei non erano quelle del gran mondo, si sentì conquistato dalla loro disinvolta gaiezza. Di tutto questo, Elizabeth era assolutamente al buio. Per lei, egli continuava a essere l'individuo che si rendeva antipatico dovunque e che non aveva ritenuta abbastanza bella per poterle ballare insieme. Darcy incominciò a desiderare di conoscerla meglio e, come primo passo sulla via di una privata conversazione con lei, si mise ad assistere alle sue conversazioni con gli altri. Questo gesto attirò l'attenzione di Elizabeth. Fu in casa di Sir William Lucas, dove era radunata molta gente. «Che cosa vuole il signor Darcy?» domandò Elizabeth a Charlotte, che è stato ad ascoltare la mia conversazione col colonnello Forster. È una domanda alla quale può rispondere soltanto il signor Darcy, ma se continua non mancherò di dirgli che ho capito benissimo il suo scopo. Ha uno sguardo così ironico che se non incomincio a diventare impertinente anch'io, presto mi farà paura. Darcy si avvicinò subito dopo, senza apparente intenzione di voler parlare. La signorina Lucas sfidò l'amica a tornare con lui sull'argomento ed Elizabeth, spronata a quel modo, gli si rivolse dicendo: Non le è sembrato, signor Darcy, che io mi sia espressa in modo particolarmente felice poco fa, quando tormentavo il colonnello Forster per persuaderlo a dare una festa di ballo a Meryton? Si è espressa con molta energia, ma già, questo è un argomento di conversazione che rende sempre energiche le signore. Com'è severo? Ma ora toccherà a lei essere tormentata, disse la signorina Lucas. Vado ad aprire il pianoforte, Lizzy, e tu sai ciò che ti spetta. Che strano tipo di amica sei tu, con codesta tua mania di farmi suonare e cantare in pubblico. Se avessi delle ambizioni musicali, allora mi saresti davvero preziosa, ma stando le cose come stanno, preferirei di molto non dovermi esibire davanti a persone indubbiamente abituate ad ascoltare soltanto i migliori esecutori. Tuttavia, alle insistenze della signorina Lucas soggiunse: Benissimo, se così deve essere, sia. E con un'occhiata severa al signor Darcy: C'è un vecchio modo di dire che certamente è ignoto a tutti qua dentro. Tieni in serbo il fiato per soffiare sulla zuppa. Per e io voglio serbare il mio per riscaldare il mio canto. Fu un'esecuzione piacevole, sebbene non straordinaria. Dopo un paio di canzoni, prima che potesse rispondere alle numerose richieste di cantare ancora, fu sostituita con entusiasmo al pianoforte dalla sorella Mary, la quale, essendo l'unica bruttina della famiglia, lavorava d'impegno per acquisire cognizioni e diventare una signorina compita, sempre ansiosa di fare sfoggio del proprio sapere. Mary non aveva né bravura né gusto. L'ambizione l'aveva spinta ad applicarsi con tenacia, ma le aveva al tempo stesso conferito una certa aria pedante e presuntuosa, che avrebbe nociuto anche a un grado di eccellenza maggiore di quello da lei raggiunto. Elizabeth, semplice e disinvolta, s'era fatta ascoltare con molto più diletto, benché non suonasse bene come la sorella, e Mary, alla fine di un lungo concerto per piano, fu lieta di meritare lodi e ringraziamenti a prezzo di canzoncine scozzesi e irlandesi, su richiesta delle sorelle, che con alcuni dei Lucas e due o tre ufficiali si misero a ballare con ardore in fondo alla sala. Il signor Darcy rimaneva in piedi, vicino a loro, in silenziosa indignazione per quel modo di passare la sera che escludeva ogni possibilità di conversazione ed era troppo immerso nelle sue riflessioni per accorgersi che gli stava accanto Sir William Lucas, finché questi incominciò. Che piacevole divertimento per la gioventù è il ballo, signor Darcy. Non c'è nulla che lo valga, mi pare. Io lo considero uno dei principali ornamenti del mondo civile. Certamente, signore, e presenta pure il vantaggio di essere in voga anche nel mondo meno civile. Non c'è selvaggio che non sappia ballare. Sir William si accontentò di sorridere. Il suo amico balla magnificamente, riprese dopo una pausa, vedendo che Bingley si univa al gruppo, e non dubito che anche lei sia un adepto di questa scienza, signor Darcy. Ritengo che mi abbia visto danzare a merito, un signore. Precisamente, e ne ho riportato un piacere tutt'altro che trascurabile. Va spesso ai balli di Palazzo St. James? Mai, signore. Non lo ritiene forse un omaggio adatto al luogo? È comunque un omaggio che cerco di non rendere mai in nessun luogo, se appena posso esimermi. Lei ha una casa in città, suppongo. Il signor Darcy si inchinò. Un tempo avevo pensato io pure di stabilirmi in città. Mi piace frequentare la città elevata, ma temevo un pochino che l'aria di Londra non si confacesse a Lady Lucas. Qui fece una pausa nella speranza di ottenere una risposta, ma il suo interlocutore non era incline a favorirgliela. E siccome proprio in quell'istante Elizabeth stava dirigendosi alla loro volta, fu colto dall'ispirazione di fare una cosa molto galante e la chiamò. Cara signorina Lizzie, perché non balla? Signor Darcy, mi permetta di proporle questa signorina come una dama molto desiderabile. E prendendole la mano, l'avrebbe messa in quella del signor Darcy, il quale, benché al colmo dello stupore, non era contrario ad accettarla. Se Elizabeth non si fosse improvvisamente ritratta, dicendo con voce alquanto alterata a Sir William: Creda, signore, non ho la più lontana intenzione di ballare. La supplico di credere che non mi sono mossa questa volta allo scopo di mendicare un cavaliere. E signor Darcy, serio e compito, pregò che gli venisse concesso l'onore di quella mano, ma inutilmente. Elizabeth era decisa. Ne valsa di stoglierla dal suo proposito il tentativo di persuasione di Sir William. Lei balla tanto divinamente, signorina Lizzie, che è una vera crudeltà negarmi la gioia di ammirarla. E benché questo signore disdegni, in linea di massima, tale passatempo, non può aver nulla in contrario, ne son certo a farci cosa gradita per una mezz'oretta. E signor Darcy è la cortesia in persona, disse Elizabeth con un sorriso. Per l'appunto, ma considerando l'allettamento che gli si offre, cara signorina Lizzi, non dobbiamo meravigliarci della sua compiacenza. Chi si opporrebbe a danzare con una dama come lei? Elizabeth sorrise maliziosamente e si allontanò. La sua inflessibilità non le aveva nociuta agli occhi del giovane, che stava pensando a lei con un certo compiacimento, quando venne accostato dalla signorina Bingley. Indovino l'oggetto della sua reverie. Non crederei. Lei sta pensando a come sarebbe insopportabile dover passare molte serate in questo modo, in simile compagnia, e le assicuro che sono anch'io della sua opinione. Non mi sono mai annoiata tanto. L'insulsaggine, ciò non di meno il chiasso, la nullità e pur tuttavia la prosopopea di tutta questa gente. Darei non so che cosa per ascoltare le sue critiche maligne in proposito. La sua supposizione è totalmente errata, gliel'assicuro. Avevo la mente occupata in modo assai piacevole. Stavo meditando sul grandissimo piacere che possono procurare un bel paio di occhi nel viso di una donna graziosa. La signorina Bingley gli piantò subito i suoi occhi in faccia, esprimendo il desiderio che egli le confidasse quale signora poteva vantarsi di avergli ispirato simili riflessioni. Il signor Darcy rispose con grande ardire: «La signorina Elizabeth Bennet». «La signorina Elizabeth Bennet», ripeté la signorina Bingley. «Io non mi ci raccapezzo. Da quanto tempo gode dunque i suoi favori? E di grazia, quando è che bisogna fare gli auguri?» Ecco appunto la domanda che mi aspettavo da lei. L'immaginazione femminile è velocissima. Balzi in un attimo dall'ammirazione all'amore, dall'amore al matrimonio. Lo sapevo che lei mi avrebbe fatto gli auguri. Anzi, se ha delle intenzioni serie, devo considerare la faccenda bella e conclusa. Avrà una suocera deliziosa, non c'è che dire, che verrà a stare a Pemberley con lei. Egli l'ascoltò con assoluta indifferenza finché a lei piacque divertirsi a quel modo, e poiché l'impassibilità del suo interlocutore l'aveva persuasa che la cosa era certa, ella continuò per un pezzo a far dello spirito.